La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ci sono giorni in cui essere la madre di una bambina con sindrome di Down mi pesa particolarmente. Sono i giorni della burocrazia. Sono anche i giorni in cui mi vergogno di essere cittadina di questo paese, cosa di cui in genere sono molto orgogliosa, ma questa è un'altra storia, lunga. Non amo le scartoffie, le domande, le file, le attese, i moduli da compilare. D'altra parte non credo li ami nessuno, ma per rivendicare un diritto, da noi la strada è ripida e piena di ostacoli. La legge è chiara. Le persone con sindrome di Down hanno diritto al riconoscimento dell'handicap grave e all'indennità di accompagnamento. Ovviamente questi diritti non sono rivedibili. Dalla sindrome di Down non si può ancora guarire, ma su questo la nostra burocrazia pare ottimista e in qualche occasione fa finta di crederci. Ma non c'è nulla da ridere. Per aver riconosciuti questi diritti, però, i nostri bambini devono sottoporsi all'accertamento dell'handicap. Inviare il cariotipo di mia figlia, evidentemente, è troppo facile. Non è la fede che ha cambiato la mia vita, ma l'inchiostro che guida le mie dita, la mia mano, il polso. Questo è un estratto del libro Lo zaino di Emma. E questa è la storia di Martina Fuga, di sua figlia Emma con sindrome di Down e di un mondo di piccoli grandi gesti. La storia di un'intera famiglia, attraverso la quale è possibile vedere una parte di questo paese, le sue risorse e le sue debolezze. Così, la prima volta di Martina Fuga ha inizio con una grande rivoluzione che avviene il giorno della nascita di Emma. Questa è la cosa che mia figlia mi ha insegnato di più, cioè io che sono decisamente una maniaca del controllo, e lei mi ha messo duramente alla prova in questo. Lei con la sorpresa alla nascita, ma anche quotidianamente, perché devo comunque reinventare tutti i giorni, anche nelle piccole cose, delle strategie per riuscire ad arrivare a lei. E quindi questo sicuramente è una cosa molto che lei mi ha insegnato in questo pezzo di vita. Però lei, quando aspettava Emma, ha deciso di non fare analisi invasive o comunque analisi che potessero dare uno specchio, un'immagine della bambina che stava aspettando? Sì, è una scelta che ho fatto già con la mia prima figlia Giulia. Ne abbiamo parlato molto con mio marito, non è stata una scelta così istintiva, o ne abbiamo parlato, ci abbiamo riflettuto molto e abbiamo deciso. Ero terrorizzata dall'idea di fare delle indagini prenatali, non tanto per quello che mi aspettavo, quanto perché temevo che potesse succedere qualcosa durante gli esami. E quindi non ho voluto sapere e ho accolto quello che arrivava. Invece poi lei racconta che col terzo figlio il dibattito si è fatto più spinoso in casa e quindi ha dovuto accogliere la richiesta di suo marito e andare a farla la villocentesi. E lì è stato un momento un po' doloroso, perché ha capito che la scelta di mettere al mondo Emma non veniva vissuta dal mondo, appunto, della medicina in maniera così, insomma, lineare, adesso non so come definire. Sì, no, in quel momento io ero anche molto fragile, nel senso che Emma aveva 5 mesi, quindi era appena nata e non avevo ancora, diciamo, attrezzato la corazza. Per cui ricordo che quando sono arrivata in ospedale ho visto un cartellone con scritto maschio o femmina, ma l'importante è che sia sano. Io lì me la sono sentita pungere proprio nello stomaco. È chiaro che quel manifesto non aveva niente di negativo contro le persone con sindrome di Down, però io ovviamente ci ho messo del mio e l'ho interpretato come tale. D'altra parte i nostri figli sono sani, la maggior parte dei bambini con sindrome di Down hanno delle patologie connesse, certamente, però la sindrome di Down di per sé non è una malattia, quindi non sono dei bambini malati. Mia figlia è nata perfettamente sana, non aveva patologie cardiache, non aveva, e questa è la sua vera fortuna, per questo le ha permesso di non essere ospedalizzata e quindi di far partire la sua vita comunque con difficoltà, però certamente con alleggerita rispetto a tanti altri bambini con sindrome di Down o con altre disabilità. Ecco, la cosa che le volevo chiedere è anche, insomma, quello che lei racconta relativo alla vita vera, cioè, insomma, quindi la burocrazia, lo riuscire ad arrivare ad ottenere per esempio il riconoscimento di una disabilità. È una notizia attualissima quella per cui ci sono stati dei casi di bambini a cui non è stata riconosciuta una disabilità, non hanno avuto l'insegnante di sostegno. Ecco, lei rappresenta anche un'associazione che proprio si occupa di dare voce alle famiglie, no? Con bambini con sindrome di Down. Le volevo chiedere qual è la situazione attuale in merito a... Allora, formalmente la situazione è molto buona, nel senso che in Italia abbiamo forse le leggi migliori in tema di inclusione scolastica, quindi da questo punto di vista noi nella teoria dovremmo essere tranquilli. Il problema è l'applicazione delle leggi. Nelle scuole italiane purtroppo ancora si fatica a dare innanzitutto le ore di sostegno necessarie ai bambini secondo la loro disabilità. Io conosco tanti bambini nella situazione di Emma che hanno magari 9 ore di sostegno. Un bambino con sindrome di Down con 9 ore di sostegno non è pensabile che possa fare il suo percorso scolastico. Questi bambini hanno delle grandi potenzialità, molto di più di quello che ci si aspetta, ma devono essere seguiti, devono essere sostenuti. E quindi, certo, noi genitori, insieme alle associazioni, dobbiamo lottare ogni settembre per avere quello che i nostri figli spetta. E questo è faticoso. Poi magari gli insegnanti di sostegno vengono incaricati magari tardi, quindi non partono a settembre. Anche perché se manca quel sostegno all'interno della scuola, cosa succede? Che è la famiglia che si deve far carico delle ore in cui non c'è il sostegno? Questo è totalmente fuori legge, però succede. Succede. Anche perché i nostri figli per i loro compagni sono una risorsa, non sono un elemento di disturbo come capita di essere rappresentati, sono una vera risorsa. Sì, quando sento le storie di amici o vedo la mia esperienza personale nella mia scuola dove questi bambini sono perfettamente inseriti nel contesto scolastico, nella classe, vedo cosa passa, no? Attraverso le relazioni e le esperienze, possono veramente essere una risorsa per i loro compagni. Ecco. Però la questione è anche legata a quello che diceva lei, cioè il pregiudizio, no? Molto spesso questo tema della risorsa, soprattutto all'interno delle famiglie, non viene colto, cioè, anzi, insomma, ancora oggi di disabilità si parla come una difficoltà, no? Un freno alla classe stessa. Sì, purtroppo è così, viene spesso percepito come un limite, no? un elemento che rallenta il percorso scolastico degli altri bambini, un ostacolo che frena il programma. Purtroppo questo è vero, però io trovo che sia anche importante che anche noi genitori siamo proattivi in questo, cioè cerchiamo di parlare con gli altri genitori, cerchiamo di raccontargli dei nostri figli, cerchiamo di farli conoscere. A me è successo nel corso dell'esperienza scolastica che dei genitori venissero da me a chiedere come posso raccontare mio figlio. Che cosa è Emma? Perché mi fa delle domande, perché i bambini finché sono alla materna, finché sono i primi elementari, magari non percepiscono neanche la differenza. Siamo noi genitori che magari abbiamo questa paura, questa preoccupazione. Loro sono tranquillissimi, loro vivono la loro esperienza di diversità con tanta normalità, sì. E questo è straordinario. Poi certamente cominci a essere in seconda e terza elementare e i bambini cominciano a farti delle domande. Ed è importante che i genitori rispondano, però non sempre i genitori sono attrezzati per rispondere, e questo non lo dico con critica, ma lo capisco. Finché non ti tocca da vicino un'esperienza così, come fai a entrarci dentro? La prima volta. Lo sguardo degli altri non usa parole, e a me quelle parole mancano. Il silenzio costruisce muri di solitudine e di emarginazione. Il silenzio fa marcire le domande della testa e pietrifica il cuore. I bambini a volte mi chiedono: «Ma perché Emma parla così?» Con semplicità e spontaneità. E io rispondo alla loro domanda, che non trovo né inopportuna né morbosa. Qualcuno di loro non trova il coraggio e mi guarda con gli occhi pieni di domande. E allora sono io a dire: «Vuoi chiedermi qualcosa?» Alcuni imbarazzati scappano dicendo: «No, no!» Altri aprono il cuore. Quando lo fanno, scopro un cuore pieno di domande bellissime a cui provo a dare risposta. A volte confesso loro di non saperlo nemmeno io. Altri ancora tornano a casa con i loro dubbi, le preoccupazioni e le paure, e le domande le pongono ai loro genitori, come è giusto che sia. Con i bambini è tutto più semplice. Si comincia da qui ad abbattere il muro del silenzio. Si comincia dai bambini a combattere la discriminazione. Si comincia dalle risposte alle piccole e grandi domande, a creare una nuova cultura della diversità. La diversità tutta, perché non ci sono solo le persone con la sindrome di Down, o solo i disabili, o le persone con la pelle di un colore differente dal nostro, o che fanno scelte di vita diverse, scelte d'amore diverse. Abbattiamoli quei muri di silenzio, mattoncino per mattoncino, domanda per domanda, parola per parola. Quando a domenica fanno giro, capelli nevo nevo vestiglio, qua madama madama testo, belli in che festa, ti ti aprevo a processione, la Teresina do Teresum, ti ta mia effigie di Dio, capelli da low. Questo è uno dei passaggi del libro Lo zaino di Emma, di Martina Fuga, madre di tre bambini, tra cui Emma, nata con la sindrome di Down. Un libro bello, privo di fronzoli, ma accogliente e molto intelligente, nato dall'esigenza di abbattere i luoghi comuni e dalla speranza di creare un ponte di discussione. Trovo che i genitori che sono venuti da me a chiedermi come posso raccontare di Emma a mio figlio sia stata una grandissima cosa, perché io gli ho dato i miei strumenti, quelli che avevo. Ma io gli ho raccontato quello che ho raccontato agli altri miei due figli, cioè che Emma era una bambina come tutti gli altri, solo che era nata con un piccolo zainetto sulle spalle che le pesava e che le faceva fare più fatica a fare tutte le cose, ma che col tempo, con la pazienza, con la fiducia, con la determinazione e magari anche col nostro aiuto intorno, lei avrebbe raggiunto tutti gli obiettivi che raggiungevano gli altri bambini. Ed è così, perché mano a mano che lei cresce, vedo le difficoltà, vedo la differenza con gli altri bambini, certamente, però vedo anche che col tempo, con la fiducia e con la determinazione, lei ottiene quello che hanno ottenuto gli altri miei figli. Lei ha imparato a camminare, lei ha imparato a scrivere, lei ha imparato a leggere, piano piano. Sì, infatti poi nel libro è molto divertente questo aspetto di Emma che cresce e lei, tipica mamma, cosa che succede anche a me, che resta un passo indietro, no? Che vorrebbe proteggerla da ogni cosa, ed Emma è già andata, insomma. Sì, la cosa meravigliosa è questa, nel senso che io magari mi accanisco a fare certi percorsi, anche magari pedagogici, no? Che ho letto in un libro che mi ha insegnato la logopedista, che, piuttosto che la psicomotricista, piuttosto che un consiglio di un'altra mamma, e poi magari lei all'improvviso mi realizza quella cosa che fino all'altro giorno io vedevo come un ostacolo insormontabile, con tanta semplicità, un po' come fanno tutti i bambini. È che il processo è rallentato, però in questo processo rallentato c'è anche la meraviglia di conoscere il processo, per me mamma, nel senso che io non ho mai capito come gli altri hanno imparato a leggere, o come gli altri hanno imparato a scrivere, o come gli altri hanno imparato a camminare. Con Emmy sono riuscita a gustare ogni piccolo passaggio di questo, ho capito cosa le mancava per riuscire ad arrivare lì, insomma è stato anche bello riuscire a vedere il processo di crescita e di conquista, che con gli altri ti scappa via. Sì, va veloce. Ma proprio in merito a questo, lei ha dedicato un capitolo del suo libro, Lo zaino di Emma, ai luoghi comuni rispetto alla sindrome. Quali sono i luoghi comuni? Spieghiamoli ai nostri ascoltatori. E quali sono quelli, insomma, che poi lei ha visto confermare nella sua esperienza di mamma? Beh, insomma, i luoghi comuni in genere sono che sono bambini molto affettuosi. Ecco, questa è una cosa ricorrente. Ma in realtà, poi mia figlia nello specifico è molto affettuosa, ma io penso che Emma sarebbe stata affettuosa indipendentemente dalla sindrome di Down. Conosco tantissimi bambini con sindrome di Down che affettuosi non lo sono per niente, anzi, e che non sono bambini che facilmente si relazionano, ma non perché hanno difficoltà a relazionare, ma solo perché sono, come dire, riservati, timidi. Quindi non trovo che l'affettività sia un luogo comune. E poi un'altra cosa che si dice è che sono testardi. Cioè, no, io penso che più che testardi sono determinati, nel senso che loro vogliono conquistare l'autonomia, ha una sua identità forte, lei vuole esprimere la sua identità, e meno l'ascolti più lei la vuole affermare, ha bisogno di affermare, più è lei ignorata dagli altri, più lei insiste. Quindi questo essere testardi è solo una volontà di essere e di essere riconosciuti nella propria identità. Poi io in quel capitolo parlo anche delle espressioni che vengono usate, no? Che spesso dico, tua figlia è un dono. Sì, certamente, come lo sono tutti i figli, ma non è che la sindrome di Down sia un dono. Per certi versi a me ha aperto un mondo, sicuramente, a me ha dato forse qualcosa di più nella vita, ma non certo a mia figlia. Mia figlia ha certamente tolto qualche cosa. O piuttosto che quando ti dicono è arrivata da voi perché voi eravate in grado di... Ah, sì? Sì, un classico, siete proprio una bella famiglia, per fortuna che ha trovato voi, no? Queste sono le frasi che penso che molta gente dica anche sinceramente, non è questo, però tante volte sono espressioni che vengono usate anche per togliersi un po' dall'imbarazzo, no? Ma perché genera imbarazzo, secondo lei? Perché è un mondo sconosciuto. Di fatto quello che non conosciamo ci mette paura. Un'altra cosa che mi ha molto colpito del suo libro è relativa, insomma, alla visione del futuro, no? Cioè quando, cosa che facciamo tutti e che fa anche lei pensando ad Emma, come si immagina il futuro per Emma? Dunque, questa è la parte più dolorosa, nel senso che... certamente i nostri figli hanno delle grandi potenzialità se opportunamente sostenuti, aiutati, accompagnati in percorsi anche di autonomia, di conquista dell'autonomia. E io su questo lavoro da quando è nata, perché la mia preoccupazione è sempre quando io non ci sarò più. Cioè il tema del dopo di noi è il tema più doloroso e più drammatico per noi genitori di figli con disabilità, cioè ci chiediamo che ne sarà dei nostri figli. Certo, Emma ha due fratelli, no? Ma io non voglio dare ai suoi fratelli il carico, gli ho già dato un carico di responsabilità già da bambini, e glielo do tutti i giorni, lo condivido tutti i giorni con loro due, però non voglio darglielo nel futuro. Voglio che loro abbiano un rapporto con la sorella di parità. Di parità. Per cui voglio che Emma conquisti le maggiori autonomie possibili rispetto alle sue potenzialità, chiaramente. E ho delle grandi aspirazioni, perché oggi conosco adulti con sindrome di Down che vivono da soli, che lavorano, che hanno creato delle autonomie che gli permette di vivere una vita autonoma. E questa è la mia più grande aspirazione. Tra l'altro a Milano ci sono diversi esempi, insomma, di realtà che funzionano molto bene. C'è al Parco Sempione un bar molto bello gestito da un gruppo di ragazzi Down, ed è un posto molto bello, è proprio adesso al di là, cioè ci si va volentieri, si viene accolti, sono proprio bravi, insomma, cioè, funziona bene. Per cui insomma, mi sembra che in questo senso la nostra società di passi avanti ne abbia fatti tanti, probabilmente grazie anche a lei, che tra l'altro adesso volevo farle parlare della sua associazione che rappresenta. Cioè, credo che questo abbia molto cambiato la percezione delle cose in tutti noi. Certo, l'esperienza di della locanda alla mano in Parco Sempione è un'esperienza che chiaramente fortemente voluta dall'associazione AGPD di Milano, ma per me è anche un'esperienza importante perché fa cultura, crea cultura. Esatto. Cioè andare al parco e andare al bar, un bellissimo posto peraltro, e venire servito da dei ragazzi con sindrome di Down, certamente può cambiare anche il percepito di chi passa di là per caso, e questo è molto importante. Parlando dell'associazione, volevo anche appunto darti la possibilità di raccontarci quali sono, insomma, se ci sono delle attività che vengono fatte che vorresti promuovere. Sì, il libro esce proprio in concomitanza con la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down. Questa giornata nasce come giornata di sensibilizzazione, quindi appunto per far conoscere quello che ci dicevamo prima, chi sono le persone con sindrome di Down e che potenzialità hanno, e quest'anno il Core Down la dedica all'autonomia. Cioè ha proprio attivato una raccolta fondi tramite un numero solidale che è il 45593, che sarà attivo dal 1 al 14 di ottobre. E i fondi raccolti verranno utilizzati per dei progetti di autonomia sul territorio per migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome di Down. La prima volta termina qui. Prima di salutarvi vi invito ad andare a teatro, magari a vedere artisti indipendenti come è accaduto a me andando a vedere Speaking in Tonga a Milano, una commedia davvero molto interessante. Per il resto l'appuntamento con noi della prima volta è sempre di domenica, sempre alle 13.30. Ci trovate su Facebook alla pagina Radio 24 La Prima Volta, ci potete scrivere all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.